Ecco a voi chi era Andrea Pazienza. Mi chiamo Andrea, Michele, Vincenzo, Ciro, Pazienza. Ho 24 anni, sono alto 1 metro e 86 cm e peso 75 kg. Sono nato a San Benedetto del Tronto, mio padre è pugliese. Ho un fratello e una sorella di 22 e 15 anni. Disegno da quando avevo 18 mesi. So disegnare qualsiasi cosa in qualunque modo. Da 11 anni vivo solo. Ho fatto il liceo artistico, una decina di personale e nel 74 sono divenuto socio di una galleria d'arte a Pescara. Sono stato tesserato dal 71 al 73 ai marxisti leninisti. Sono miope. Ho un leggero strabismo. Qualche molare cariato e mai curato, fumo poco, pochissimo. Mi rado ogni 3 giorni, mi lavo spessissimo i capelli e d'inverno porto sempre guanti. Ho la patente da 6 anni, ma non ho la macchina. Quando mi serve uso quella di mia madre, una Renault 5 verde. Dal 76 pubblico su alcune riviste. Disegno poco e controvoglia. Sono comproprietario del mensile Frigidaire. Mio padre, anche lui svogliatissimo, è il più notevole acquarellista che io conosca. Io sono il più bravo disegnatore vivente. Amo gli animali, ma non sopporto di accudirli. Morirò il 6 gennaio 1984. Da Andrea Pazienza, le figure storiche. San Severo, Foggia, 1971, casa del professor Pazienza. È pronto? Ciao, ciao. Sì, sono Giuliana. Sì, ho finalmente trovato una ragazza per le faccende. Dorme qui, le ho sistemato la cameretta in fondo al corridoio. Sì, se no come facevo? Mami, cosa c'è di vero? Hai trovato una ragazza? Mi raccomando a voi, Cioè, ma? Trattatela bene, se no se ne va. Ah, ma a me trattatela bene non me lo dici, capito? Io le rispetto le persone, capito? Ma per chi mi pigli? God. Una donna sconosciuta avrebbe dormito morbida e calda nella stanzetta di là. Calmati cuore. Ma il giorno dopo ella arrivò. Si chiamava Carmelina, ma il nome non mi importava. Detto tra noi, non era niente di che, ma si sa c'è un'età in cui non si va troppo per il sottiglione, perché aveva il culetto alla cavalluccio di Mascia, cioè da pony. Ma per me era la più bella di tutte perché era una donna. Per 3 notti mi allenai al seguente esercizio. Fingevo, con me stesso, di dormire. Indicavavo una mano fuori dalle coltri per poi rinfilarla sotto le coperte ed appoggiarmela sulle parti basse. E tutto questo senza svegliarmi. Dopo un tot, avevo acquistato sufficiente pratica da svolgere tutta l'operazione senza svegliarmi. L'importante era, secondo me, appoggiare quella mano senza esitazioni, con delicatezza e con decisione. E venne la notte fatale. Così mi preparai. Strisciai, uso marine, lungo tutto il corridoio ed aprì pian piano la porta della stanzetta della Carmelina. Un secondo più tardi ero sotto il suo letto. Il cuore mi rimbombava. Allora agii, la mia mano serpeggiò tra le lenzuola ed atterrò su un caldo ciuffetto. Era nuda. Subito però un urlo terrificante squarciò il silenzio della notte. Ritrassi al volo la mano, tosto comprendendo qual era stato il mio errore. La mano era, dopo la strisciata sul freddo pavimento, gelata. La luce si accese e mia madre entrò nella stanza. La mano d'un morto, signori, sotto al letto! Ma no, ma che dici, hai sognato? Non c'è nessuno sotto al letto! Fu allora che, preso dalla disperazione, incastrai veloce i piedi tra le sbarre della rete e, afferrate con le mani altre sbarre, mi tirai su! Proprio nel momento in cui mia madre si chinava a spazzare con lo sguardo il pavimento sotto di me. «È visto, non c'è nessuno!» la sentì dire poi. E lì, allo stremo delle forze, tornai ad appoggiare la schiena al suolo. Ma la Carmelina, poco convinta, volle anche lei controllare. Il nostro fu un imbarazzante vis-à-vis. E così scappai, Scappai via rosso come un gambero da sotto il letto, sotto gli occhi esterrefatti di mia madre che, sospettata di collusione, vide partire l'offesa Carmelina. Credo che mamma, in tutti questi anni, si sia sempre chiesta dove fossi io sotto quel letto quando ci guardò lei. Beh, ora lo sa. Ah, fai l'artista, eh? Fai l'artista, te ne freghi. Ma in verità è la gente che se ne frega. E dici, e che mi frega, sono un artista. Se vive bene così, se no cicca. Ma sai che gliene frega la gente che sei un artista? Sei un artista e ce lo cachi che sei un artista. Cioè in pratica o diventi produttivo, vaffanculo. Guarda, che Andrea Pazienza che non caga, è tutto così, insomma, è un fatto che ti sei inventato tu, cioè un mito che non esiste. Ma non sei tu che non caghi, ma gli altri che ti hanno emarginato. Ah, perché dormi una notte in facoltà e hai fatto l'occupazione? Cioè squacqui due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'espresso una settimana sì, due no, Linus quando ti capita. Ed ecco, secondo te, il risolto il problema del tenersi aggiornato. Ma manco è il buon senso, ma che almeno il pudore di starti zitto, no? Dice, almeno sta zitto. Ma qua il compagno spara dei giudizi sugli autonomi o sui collettivi, Jacquerie, Nouvelle Vogue. Oh, ma ci credi tutti scemi? Ma sai cosa si dice di te dopo che hai sparato qualche palla atomica? Si dice... No, è inutile parlargli, tanto è scemo. Oppure... Ma sì, ma fatelo dire quel coglione! O al massimo... Ti si concede l'alibi della pazzia e in questo caso tu parli e qualcuno dietro di te ci fa segno, come dire, ditegli sempre di sì. Ma che significa? Che significa ti lascio? Che non faremo mai più l'amore? Che non ci vedremo più, o che incontrandomi non mi saluterai neanche. No, niente di tutto questo, forse sì, forse è proprio tutto questo. È il concetto che conta, cioè ti lascio, amen. No, la meccanica non mi interessa, la meccanica non mi interessa, la meccanica non mi interessa, mi interessa la meccanica, no, la meccanica. Beh, questa è davvero grossa. Venite a vedere come si è addormentato sto scollato. Andrea, svegliati. Cioè vai vicino a Genova e compri una barca, 3 milioni, il resto in cambiali, poi prendi 2 milioni, vai in Marocco con la barca, compri 10 kg di fumo, torni in Italia, lo dai, ci fai 12 milioni, ci finisci di pagare la barca e con il resto... Cazzo! Cazzo! Cazzo, ho cercato una merda! Signorina, prego, biglietto. Non ce l'ho. Allora mi dia un documento, guardi. Non ce l'ho. Ma lei è in contravenzione, lo sa? Ah sì? Mi segua, per favore. No. E come no? No. No, allora guardi, scenda. No. No? No. Acci. Della serie, dategli in culo a quei bastardi. Da Andrea Pazienza, una estate. Quell'estate era iniziata per me coi primi gran caldi di giugno. Papà ci portava la domenica a caccia con lui, me e mio fratello Mick. S'andava a Tordi, dove i giganteschi ulivi del Gargano si inframmezzano alla pineta e più verso il mare alla macchia odorosa. In un crescente, ossessivo frinire di cicale, l'aumentato calore del giorno sprigionava gli aromi più intensi e la rossa bauxite delle cave scavate nella montagna, ammantata di verde, ricordava l'orrendo morso dell'orca sul dorso di una grande balena. Dall'alto di un colle guardavamo l'azzurra distesa del mare e poi le tremiti apparire vicinissime. E papà si accendeva allora una sigaretta e diceva sempre la solita frase. Ah, non le ho mai viste così. Ma signori, c'era proprio da credergli, perché papà viveva ogni nuovo giorno dimentico dei precedenti. Era tale il suo amore per la natura che spesso accadeva piangesse. Ah, mai però dei tordi che andava uccidendo, oppure dei loro famiglie, questo perché papà era un cacciatore serio. Io e Mick fungevamo da cani da riporto. Papà aveva una mira infallibile e dopo ogni sparo io e Mick lanciavamo un urlo e correvamo a recuperare la selvaggina. Alle volte l'uccello era solo ferito. E nel prenderlo tra le mani unite a coppa ci sporcavamo di sangue appiccicoso. L'uccello era tiepido e tremava. Noi lo annusavamo, inebriati dal suo furore gentile e silvano. Guardavamo la nostra immagine riflessa nei suoi occhi terrorizzati. Io allora pensavo che quegli occhi così vivi, entro 5 secondi, non avrebbero visto più. Contavo fino a 3. Poi lo sbattevo per terra. Quando lo raccattavo, aveva subito una profonda metamorfosi, era morto. Le piume non aderivano più al corpicino, le zampe, le ali spezzate, ne confondevano il contorno. sugli occhi chiudevano le minuscole palpebre. Ma qualche volta la delicata macchina volante tratteneva chissà come ancora un poco di vita e l'uccello restava, il becco aperto e lo sguardo pazzo di paura, fuso al terreno e vibrante di orrore per quella morte innaturale. Ma quell'estate si confermò a giugno, quando nel tavoliere matura il grano e io mi cavavo via le calze, mamma mi comprava le pianelle, quelle col dito in mezzo. Si intraprendeva allora il viaggio verso San Benedetto del Tronto che, assenti le autostrade, al tempo facilmente superava le 6-7 ore. E mentre l'azzurro Gargano stingeva le nostre spalle, papà si abbandonava a tutta una serie di patriottiche considerazioni. Dopodiché si attaccava a cantare «Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro» e mamma mormora la bambina. Mio fratello raccontava una barzelletta che era sempre la stessa e mancava di finale. Ma il Molise si separava innanzi, con il lucore della sua marina, la sinistra Maiella, per poi cedere in colline dai ranghi stretti delle montagne abruzzesi e noi si rideva e si cantava e poi ogni tanto così volava uno scapaccione. Perché solo ora mi rendo conto di quanto i miei genitori fossero allora dei semplici ragazzi. Ma come tutti i viaggi c'è una metà, superata la quale, è tutta in discesa. E quindi, come aiutati dall'abbrivio, così accaldati, felici, arrivammo anche quell'estate a strombazzare sotto la finestra della casa dei nonni, che era una vecchia villa sul lungomare, molto ben tenuta e con un giardino, un giardino meraviglioso, che era pieno di luoghi segreti. Io, per l'appunto, quel pomeriggio facevo rimbalzare una pallina contro la serranda del garage della casa dei miei nonni, menandola con una vecchia racchetta, provocando una serie di tonfi che, sapevo, avrebbero presto trovato la strada del risveglio nel cervello dei dormienti. Al primo nella casa che avesse aperto gli occhi sarebbe toccato dissuadermi dandomi voce da una finestra. In attesa di ciò continuavo svogliato a far rimbalzare la pallina. E fu proprio allora, mentre seguivo con gli occhi la traiettoria di un ennesimo rimbalzo, sentii ridere in alto sopra la mia testa. Da un balconcino dell'albergo che confinava col muro della rimessa vidi affacciarsi una donna e subito alle sue spalle un uomo. Erano entrambi nudi e ridevano della loro provocazione e con un'ultima risata come lottando poi rientrarono nella loro stanza. Io rimasi lì. Cosa avevo visto mai che mi aveva così turbato? Ricordo ancora le vampe che mi assalivano e le campane suonare nella testa mia. Cosa avevo visto mai che mi aveva così turbato? Non mi peritai di andare a ritrovare quella pallina che quell'ultimo rimbalzo aveva fatto rotolare ma chissà dove. Forse ancora lì, da qualche parte, da quel giorno fatale, incastrata tra le maglie di una siepe di lauro. Il potere secondo Andrea Pazienza. Soldato? Alla buon'ora, soldato. Che c'è? Allora, soldato, vuoi fare il soldato? Soldato, perché non combatti? No, soldato, vai a combattere. Ci vai? Va. Insomma, vacci. Insomma, soldato, vacci. fai il soldato. Neanche se è per fare un piacere a me. A me, Per fare un piacerino a me. Va. Dai, vacci. Soldato, ti do una cosa se ci vai. Vuoi toccarla la cosa? Ehi tu, puttana, stronza. Ma dove vai? Puttana, vieni qui, fammi un pompino, cogliona. Ehi tu. Ma vaffanculo. Ehi ragazzi, prendete i manganelli, correte, c'è una provocatrice. Andrea pazienza per fare il fumetto. Per fare il fumetto bisogna partire dal segno. Il segno è una metafora meravigliosa, è la prima cosa che mi viene in mente. Noi siamo tutti circondati da oggetti tangibili che sono depositari di un segno oppure di una serie di segni. Ecco, dallo studio di questa serie di segni nasce la matematica del segno, cioè il disegno. Ora, questo modo di vedere le cose non determina il saper disegnare, ma determina il corpo, cioè il corpo delle cose, e soprattutto il tuo corpo di artista. Per me l'importante è non giocarmi una univocità, che mi stancherebbe, cioè non la conterrei a facilità. Posso invece contenere una serie di segni diversi. Ecco, io mi applico allo studio di tutta questa serie di disegni, e questo è l'esercizio con la E maiuscola. Questo comunque è un fenomeno legato indissolubilmente alla gioia. Più gioia c'è, tanto meglio è. Perché se non c'è la gioia, il livello può scadere, ma allora si rientra nel regno della fatica e gioia e fatica non vanno d'accordo. C'è la fatica di fare ciò che tu ami fare, ma con dei tempi che non sono degni di te come persona, dei tempi che nemmeno un dentista si curerebbe di avere, mentre il dentista ti tiene in cura per 4 mesi. Il disegnatore? Il disegnatore ha 4 giorni. No, spesso un pomeriggio. E questi sono i tempi di un disegnatore. Ah, non sempre per colpa sua, eh. Comunque, signori, in quei momenti si può avvertire la fatica. Da Andrea Pazienza, la storia d'Italia in una sola pagina. Anzi, meno se non la smetto di scrivere. Starring The Italy and the Italian Inside. All'inizio c'era solo Bari. Dove sei stata? E sono stata alla bank. L'alba della storia che durò un tottiglione di anni. Scusi, che ore sono? Le 6. Infine la storia d'Italia. Romolo, Pompilio, Mario, Cannibale, Cesare, Battisti, Mogol, eccetera, eccetera. C'è il Risorgimento, nel quale produsse Michelangelo e tanti altri. A un certo punto Cristoforo Colombo scopre l'America 3 volte in tutto, circa. Da New York guardano l'Italia ancora oggi come ieri. Ben 2 volte siamo stati primi alla manifestazione Noi Italiani Sempre in Trincea. Siate fieri di essere italiani o italiani, l'Italia è il vostro paese. Mi è avanzata anche una vignetta. Polizia, mi segua. Si qualifichi. Agente di polizia Martone. Matricola? A22798. Piano, ha detto A? 22798. 98. Distretto? 21esimo. Nato? Sono nato a Roma il 3-3 del 43. Il 3 del? Del 43. Sposato? Sì. Figli? Sì, c'ho una bambina, Marina. Ha avuto malattie? Sì, scarlattina, tifo. Ma chi, lei o sua figlia? No, la mia bambina. E lei? Io non mai. Va bene, dica 33. 33. Giocate con loro, fategli dire 33. Caro Press, se anche alcune di queste paginette t'hanno fatto arrabbiare, seppure non te ne è piaciuta manco una, se mai abbia a pensare che mi sono approfittato di te, oppure peggio di tutte, non ti sei riconosciuto nel mio pupazzetto, sappi che comunque anche qui dai sobborghi della giovane Italia ti si vuole un gran bene. Tuo Paz. Pronto? Pronto, Nicolini, pronto, sono io, Bertini. Oh sì, grazie, grazie, senti compagno, eh? E come va? Come va? No, no, senti, volevo dirti, caro Nicolini, ti ricordi quei libri che avevi l'altra volta? Sì, sì, quei libri con la foderina marron, sì. Di quei libri, ti aspetto, me ne porti 2,5? Grazie, grazie, Nicolini. Papà, papà, papà, gli elefanti volano? Ma dove l'hai letta sta cazzata? Sull'unità! Oh, cioè, sì, ma niente di che, 30-40 centimetri, non di più. Da Andrea Pazienza, le droghe. Prima la domino e ci gioco. Quando sono stufo, apro gli occhi e scompare. Mi dico, giochiamo con una paranoia piccolina e poi arricchiamola di elementi, manteniamola sospesa e precipitiamola. E via così. Finché ti accorgi che non ti riesce più di dimenticarla. Da quanto tempo sono qui? Dove sono gli altri? E il mio amorino, quella zoccola di Raffaella, com'è che non la sento? No, aprire, aprire, aprire, aprire gli occhi. Ma che? Non ci riesco. Quanto buio, quanto soffro, quanti problemi. E poi, in questa paranoia, solo un leggero dondolio. Gli ultimi giorni di Pompeo. Entra un giovane occidentale. Madonnina! Dice, e stupisce della posizione della stanza rispetto ai sogni. Dopo. Sussurra. Questo ragazzo mi offre dei minuti di sé, pensa Pompeo. Poi si domanda, come fa a vivere di così tanti e tanto grandi misteri questo ragazzo? Dove mi porterà? Fuori, il vento delle idee che furono muove i rami dei platani che furono suoi durante la rivoluzione. Un'ora dopo, egli mostra a Pompeo. Dopo averlo guidato in una casa senza qualità memorabili, proprietà di assoluti sconosciuti, gli mostra l'ottava meraviglia al mondo. Un gatto nudo. Un giorno, in autobus, ho pestato i piedi a Sant'Antonio del Porcello, che mi ha detto... Non sputare dov'è proibito, non toccare il legno marcito, non derubare dei grandi il mito, non pestarmi del piede il dito. E allora io, circondato da un'aureola di sobria spiritualità, vado, ramingo e vegeto di qua e di là. Signori e signore, D'Andrea Pazienza, Detective Mama. Care mamme, se il vostro figliolo o la vostra figliola cominciano a comportarsi in modo strano, per non dire losco, si aggirano per la casa come spettri, portano gli occhiali scuri, chiudono a chiave i cassetti, ricevono brevissime telefonate e schizzano via. Se mostrano chiari sintomi di inappetenza, se non vi chiedono quasi più soldi, oppure vi stangano 20 o 30 mila lire con le scuse più strane, quasi sempre inerenti alla scuola, libri, quaderni, colori, se riempiono la loro camera di disegni allucinanti, se si svegliano esasperati, escono e tornano, inspiegabilmente raggianti e vi riempiono di moine, se dimagriscono a vista d'occhio, se si portano nella loro stanza dei ragazzi del tutto identici a loro e li confabulano qualche mezz'ora, poi uno esce, poi ritorna, poi escono tutti. Beh, i casi sono solo due. Vostro figlio è matto, è in crisi, è innamorato gravemente. Oppure vostro figlio si droga e in questo caso alcuni indizi vi permetteranno di stabilire con che sostanza vostro figlio si droga. Leggete con attenzione le pagine che seguono, tenete gli occhi aperti e... Buona caccia! Se vostro figlio, tornando in casa, vedete che ha lasciato un cucchiaio o diversi cucchiaini con la parte convessa scura di nero fumo come il fondo di una pentola... Beh, allora vostro figlio si fa le iniezioni d'eroina. Se in mezzo ai suoi soldi compare regolarmente un biglietto di banca arrotolato o che mostri di essere stato arrotolato, vostro figlio tira con il naso cocaina o eroina. Se scoprite che vostro figlio va in giro con grossi mazzi di banconote, vostro figlio vende eroina oppure hashish e cocaina, fate voi. Se controllando tutti gli specchi o specchietti, quelli che sia possibile mettere in mano, o marmi di comodini, trovate labile tracce di polvere bianca, beh, vostro figlio tira con il naso eroina o cocaina. Se detiene in camera sua un bilancino di quelli piccoli d'armaiuolo, da gioielliere, beh, vostro figlio spaccia. E spaccia hashish o eroina o cocaina o... Se tra le sue sigarette ve n'è una o più di una con il filtro sfrappolato, ecco, vostro figlio si fa le pere di eroina o di cocaina, eh? Se dal pacchetto di sigarette di vostro figlio manca la carta stagnola, vostro figlio si droga certamente. Se sulla foderina di un libro notate delle tracce di tabacco, ma guardate meglio, possono esservi particole di hashish. Se trovate nei posaceneri dei filtri di sigaretta, ma senza la sigaretta e nuovi di zecca, vostro figlio, signore mamme, si fa le canne, gli spinellotti. Se sarete delle mamme intelligenti e non perderete la testa, riuscirete ad aiutare vostro figlio. Beh. Buona fortuna. Io mi chiamo Massimo Zanardi e ho 21 anni. Sono alto 1,81 m e peso circa 68 kg. Mia madre è vedova. Ho una sorella più piccola di me di 5 anni. Ah, poi c'è uno zio, fratello di mia madre, che provvede a noi. Ah, è proprietario di una concessionaria Alfa Romeo ed è scapolo. Io gli sono piuttosto affezionato, sì. Fu lui a regalarmi la Golf decappottabile nera che ho fatto fuori l'anno scorso e da allora giro a piedi, sì. Non sono un mangione, così come non ho vizi particolari, fumo una decina di sigarette al giorno circa, quasi mai di mattina. Mi drogo, sì, quando capita, e con quello che c'è. Questo, diciamo, nella normalità, che capita ogni tot come un fatto eccezionale. E siccome non ho alcun rispetto del mio corpo e godo di una salute di ferro, mai un'epatite. Trascorro la maggior parte del mio tempo a stravolgermi. Sicché se un giorno bevo un'intera boccia di Bacardi, beh, la notte può capitare che fumi 60 sigarette. Così come non ho orari nel mangiare. Anzi, a pensarci bene, credo di mangiare effettivamente solo una volta ogni 2 giorni. E di notte, sì. A casa mia, no, a casa di altri. La testa infilata nel frigo, a ingollare cose gelate. Ma non ho del resto dei gusti difficili. Anche se amo molto la trippa in scatola. Ah, anche il ketchup, e poi il miso, sì, e il succo di pomodoro. Ci sono periodi in cui vado in palestra, e allora mangio molta carne, soprattutto hamburger, sì. Ah, da 3 anni seguo un corso estivo di kendo, e poi durante l'inverno faccio qualche combattimento e devo dire che veramente me la cavo. Il kendo? Beh, il kendo è una cosa a metà, sì. Ci credo, non ci credo. Così come mi rendo conto che il nostro maestro è un fissato. Ah, dicono tutti che col kendo va la verdura. Blue sky is smiling at me. La fabula secondo Andrea Pazienza. Do I see bluebirds sing me a song, nothing but bluebirds all day long. And I never saw the sun shining so bright, I never saw things going so right. Not a single day's hurrying by, when you're alone, my heart to fly. Blue birds are loud and gone, nothing but blue skies from now on. Come on. dal prof Spaz una lezione di storia dell'arte. Tema di oggi, i due fratelli pittori. Noi, voi, tutti conosciamo Masaccio, il grande pittore del 3-4-500 d.C. Fu egli che con la sua ineguale pittura... Ma abbiamo detto che lo conosciamo e allora basta parlare di Masaccio, che già tutti sanno tutto. Ma quello che non sapete, cari signori, è che Masaccio aveva un fratello gemello, che suo padre, Tutto Saccio, aveva voluto chiamare Nullo Saccio. Tutto Saccio, Masaccio e Nullo Saccio erano embe tre i grandi padroni e maestri della pitturatura. Tutto Saccio era quello famoso, quello che faceva gli affreschi a caldo. Era amico intimo, infatti, di Petrardo da Vinci, fratello di Leonardo, e scomparve mentre sperimentava un frullatore a catapulta invenzionato dallo stesso Petrardo. Nullo Saccio, allora, andò a bottega da Antonello da Messina a Roma, che lavorava coi suoi lavoranti siciliani. E quando succedeva qualche casino, Antonello chiedeva a tutti: «Chi è stato?» «Nullo Saccio», risponsevano i lavoranti siciliani, e infatti giubbotte a Nullo Saccio. E Nullo Saccio prese tante, ma tante di quelle mazzate, che divenne ben presto paragnosta. E i siciliani apprezzarono per la prima volta nella storia i grandi vantaggi dell'omertà. A che cosa serve un perepè? Un giorno un cavallo, un perepè e una margheritina giallo mare se ne andavano a spasso per il mondo. Pom, pa, pom, pom, alta voi, disse il grande maestro dei grigi sbucando da un cespuglio. Le margherite non vanno a spasso, lo sanno tutti, quindi questa favola finisce qua. No, la margherita la porto con me, disse il cavallo. Ciao, disse la margheritina, che era molto ben educata. E i tre continuarono la passeggiata e il cavallo portava la margherita sulla groppa. La la la la, un momento, disse di nuovo il grande maestro dei grigi. Chi ha mai sentito parlare di una margherita giallo mare? Il mare è blu e lo sanno proprio tutti, quindi la favola finisce qua. No, guarda, quando il sole tramonta il mare ha tutti i colori, disse il cavallo. Eba. E i tre continuarono a girare il mondo in lungo e in largo. E ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. La la la la, fermi qui, disse ancora una volta il grande maestro dei grigi, che era proprio un enorme scocciatore. Come mai tu, che sei un cavallo, parli? E questa margherita mi ha detto ciao. I cavalli e le margherite non parlano, e lo sanno proprio tutti, quindi questa favola finisce qua. Ma no, i cavalli parlano, solo che gli uomini non li capiscono, e la margheritina, anche lei parla, e se no come faceva a salutare? E i tre continuarono la passeggiata ridendo e scherzando. E pa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. La la la la, fermi tutti, disse ancora una volta il grande maestro dei grigi. E va bene il cavallo parlante, va bene la margherita giallo mare, ma un perepè, a che cosa serve un perepè? Serve per quando c'è uno scocciatore come te, lui salta e fa... Le femmine. Penso sempre notte di alti finché mi rapì, che magnifica scoperta. Maria Gilberta, Maria Gilberta. tutta pepe, tutta amor, piena di focoso ardor, che si deve stare alerta. Maria Gilberta, Maria Gibi, per lei son diventato un cagnolino. Mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di alti pin che mi rapì, che magnifica scoperta. Maria Gilberta, Maria Gilberta, tutta pepe, tutta amor, piena di focoso ardor, che si deve stare alerta. Maria Gilberta, Maria Gibi. Dico quant'è bella, sembra una stella, la Maria Luisa, ma l'han detta tanto grossa, grossa, grossa. Ah, se voi vedeste, se la conosceste, quella che m'ha preso il cuore, è proprio assai più bella da non paragonar. Penso sempre notte di alti pin che mira pin, che magnifica scoperta. Maria Gilberta, Maria Gilberta, tutta pepe, tutta amor, piena di focoso ardor, che si deve stare alerta. Maria Gilberta, Maria Gibi. Sembra una stella la Maria Luisa, ma l'han detta tanto grossa, grossa, grossa. Ah, se lo vedeste, se la conosceste, quella che m'ha preso il cuore, proprio assai più bella da non paragonar. Penso sempre notte di alti pin che mi rapì, che magnifica scoperta. Maria Gilberta, Maria Gilberta, tutta pepe, tutta amor, piena di poco d'ardor, che si deve stare alerta. Maria Gilberta, Maria Gibi. La femmina. In me scattano certi meccanismi laidi se parliamo di femmina. La femmina. La femmina è fantastica. La femmina è veramente stupenda. La femmina è meravigliosa. Io ho una grossa partecipazione erotica a ciò che mi succede intorno, e proprio perché è così scatenata, non vale la pena di starla a descrivere per esteso. Polizia, mi segua. Ah, ma allora lei è un poliziotto. Sì, mi segua, per piacere. No, perché è un po' che la guardavo, no? E non capivo. Lei guardava me. Eh sì, e mi domandavo, ma chi è, ma chi non è? Perché io la sua faccia l'ho già vista, guardi, non riesco a capire dove, ma... Io credo in commissariato, no, guardi. No, no, non in commissariato. Mi faccia pensare a casa della Polda. La Polda, no, sì, io... Sì, la festa di compleanno della marchesina St. Moritz, in quella splendida villa sul mare. No, guardi... Sì, ora ricordo. Lei era accompagnato da quella splendida signorina bionda. Sì, lei aveva un meraviglioso taglier cobalto. Eravate una coppia stupenda. Ah, ricordo quando vinceste la gara di ballo. Che tanghi, che meravigliosi cia-cia-cia. Ricordo anche che l'aria profumava di glicine. Il glicine. Ah, le stelle brillavano e tutti i signori le invidiavano la dama. Che passerella quella notte, che eleganza. Poi ricordo il bagno in piscina. Ma lei che bravo, si gettò da 10 metri, un angelo. Però poi a quel punto accadde l'episodio della duchessa Polini. Sì, lei. Aveva avuto un flirt, ma ella l'amava ancora e fece quella brutta scena. Ma questa era proprio una stronza. Così la sua amica bionda se ne andò. No, e poi tornò. Ma sì che tornò e ballasse sino all'alba. Ma è possibile che non ricordi? Sì, mi ricordo vagamente, ma poi... Ah, tu dici che ti perseguito, eh? Dici che ti perseguito. Ma guarda che basta che tu mi dica vattene e non mi vedi più. Vattene. Però me lo devi dire. E te lo sto dicendo, vattene. Sì, ma ora non vale perché ti ho praticamente dato l'imbeccata. Cioè, era prima che me lo dovevi dire, no? da Andrea Pazienza l'appuntamento. Nel bagno. Toilette completa, doccia shampoo, barba, unghie dei piedi, dopo barba Mennen cancerogeno, deodorante Gillette, Borotalco Roberts, gargarismi e dentifricio, profumo d'amico. Il vestiario. Dopo 2 ore di tentativi e studiate tutte le possibili combinazioni, canotta, mutande, calzette polpaccini, camicia, cravattino, gilettino cashmere, jeans, Clark fetenti, giacca tweed, occhialazzi da vista, orologio, sciarpetta, impermeabile folto di macchie, guanti. Gli accessori. Occhiali da sole? Bah sì. Documento, 20.000 lire, saponina, accendino MS, 2 canne già fatte, taccuino gualcito, indirizzi, elenco cinema preso al bar. L'attesa. Quale posizione assumere sul luogo dell'appuntamento? Con l'occhio fisso al riflesso di una vetrina si resta immobili 27 minuti in posa egregia. Lei arriva ovviamente dalla parte opposta dalla quale la si aspettava e ci batte sulla spalla. Mentre la testa rovesciata e le gambe divaricate, abbiamo da un paio di minuti ceduto al bisogno di un'energica e sapiente grattata di culo. Ma lei arriva. Fretta subitanea istintiva. Che si fa? Dove si va? Lascio decidere a te. Sono io l'uomo. Decido io. Andiamo in un posto che conosco. Naturalmente non si prende l'autobus. Mai. Ma siccome la macchina se l'è presa quello stronzo di mio fratello. Oddio, sembra crederci. Si scarpina. Anche se il luogo prescelto è lontanissimo. Il posto, che è naturalmente una tristissima osteria, è chiuso. È perché sono ancora 6:30. In compenso è già buio e fa freddo. Si opta per una sala da tè in un bar, perché non c'è niente di meglio di un bel tè. Così si prenderà del tè mentre in tutta la sala fioriscono cioccolate calde con panna. Bevendo del tè si iniziano i primi discorsi, che saranno strapieni di antefatti, prologhi, premesse, sempre un colpo al cerchio, 2 alla botte, poi 3 al cerchio e così via. Prime bugie, rivelazioni, cuore in mano, volano le prime palle atomiche. Non esiste una sola verità. Alpinismo, chiromanzia, buddismo, latenze, viaggi. Se si è stati, ad esempio, se è stato in Marocco, ci si è spinti sicuramente ai confini col Chad. 2 giorni a Parigi? Beh, diventano 2 mesi, anzi direi quasi 3. Discorsi oggettivi, obiettivi, terreni, spirituali, onestà, citazioni funamboliche. Poi immiserirsi e recuperare parlando benissimo di un amico X. Dopo un'ora ci si è ritratti più o meno nei seguenti modi. Esploratore, misantropo, ribelle, fuggiasco, rivoluzionario, deluso. Terrorista, pentito, sì. Collezionista, mancato. Bellissimo, ma fino a 16 anni. Eccentrico e colto, amico di individui assolutamente eccezionali, vivente nel riflusso e nella miseria. Poi con una strana sensazione di incredulità ci si accorge che lei, non ha detto una parola una, perché è sotterrata dall'idea di avere di fronte un uomo dalle mille vite turbinose, ma non trovando la corrispettiva nell'immagine propostale, ella non parla. A questo punto però ci si ricorda della canna e ad essa si delega il futuro della propria eccezionalità. La canna è naturalmente un trozzo così di Marocco e 0 tabacco. Lei che il giorno dopo un esame non fuma. Dopo 12 tirate si è stonati come un'apparenza. Lo sputo. Si deve scaracchiare. E allora ci si allontana discretamente, lo sputo, lungamente covato, fa il filo, pende, svolazza. In parte finisce sul mento, in parte sul gilet dove si attacca viscido e colloso e siccome si è pensato proprio a tutto, ma non al fazzoletto, si ricorre alla mano, che si pulirà in parte sul muro polveroso, in parte sul jeans e infine con la fodera della tasca della giacca. La sensazione di sputo comunque pervarrà dappertutto e in particolare tra le dita. La caccola. Espirando dal naso si avverte una vibrazione ed un senso di spiovente all'esterno. È una caccola. Disinvoltamente, mancando di fazzoletto, la si cerca con le dita e faticosamente la si estrae. Ciò provocherà l'uscita del muco cui la caccola fungeva da tappo. per tutta la serata. Sarà un continuo, disinvolto, spalmare codesto muco alla base del naso, riservandosi di tanto in tanto delle risucchiate mortali che vorrebbero essere, ma non saranno mai definitive. La canna ha però donato un illusorio senso di sicurezza. Ma dopo tutto perché questa paranoia? Ma non è che una ragazzotta? È allora che si fa questo tipo di discorso. Senti, io non so più che dirti. Parlo, ma tu non parli mai. E io qui a raccontarti cazzate mentre avrei voglia di baciarti e di stringerti e di abbracciarti e di stringerti e di ribaciarti mentre sempre strizzandoti. Dopodiché si placca la sfortunata contro un muro e le si impone un bacio che causa sputo e moccio. Non sarà lieta di darvi. A bacio finito le si cingerà le spalle con il braccio diretti verso il cinema. Camminare avendo una certa altezza con lo stesso passo di una sconosciuta alta la metà di voi è impresa ardua. Ma è importantissimo arrivare al cinema e sedersi mantenendo la posizione. Bisogna abituarla al contatto dal momento che, una volta al buio, non farete che palpeggiarla dai polsi fino in mezzo alle gambe con dita sputose. Le luci si spengono. La ragazza ha un gemito. Voi allora cominciate a palpeggiare. L'obiettivo è portare la sua manina tra le vostre cosce stecche. Beh, buona fortuna. Dio secondo Andrea Pazienza. Io sono il santo padre e smetti di gridare zio. Ma quale zio, cretino? Dio! E se esistesse veramente? Eh? E se esistesse veramente? Ma vedi cosa vado a pensare? Papa Visto XXI, al secolo Ugo Corazzi, soffrì dal 61 all'84 di un malessere diffuso che egli così riassumeva nei sintomi ai cerusici del tempo. Sento come dell'ovatta nelle orecchie, no? E quando guardo da lato sento come una spinta, poi se mi piego a tre quarti, mi fanno male i menischi, ma che cos'ho? Santo padre alla leucemia. In gola a Cristo! D'altra parte non potevo continuare con la scuola, no? Anche se d'altra parte, eppure mi dispiaceva di dare un dolore a mamma, che d'altra parte aveva il suo da fare con mio padre, che da una parte voleva che continuassi, ma d'altra parte aveva già in negozio mia sorella, la quale da una parte non ne voleva proprio sapere. Cosicché da una parte mia madre voleva che studiassi, ma dall'altra parte in due in negozio non ce la facevano, no? E da una parte ci credo, dall'altra parte è vero che per 2 anni andai malissimo, ma d'altra parte i tempi erano quelli che erano e non era facile poter studiare, quindi sì, dico che a tutt'oggi sono proprio un fallito, però... D'altra parte. Un'abitudine misteriosa, quasi una forza, postumo di una vita precedente. Di me, voi tutti che ascoltate, amate il riflesso, quella memoria che sale dalle cose che io tocco. Voi godete dei luoghi che io ho abbandonato senza cercare di raggiungermi. Alcuni di voi mi hanno insediato, teso trappole, atteso al varco. Quelli che sono giunti ai miei occhi, per il tempo loro concesso, hanno provato stupore della mia carne vera. Ma cosa avevano davanti se non la boa, che segnala il continente sommerso e le sue fosse e le cime invisibili sotto il pelo dell'acqua? Questo era Andrea Pazienza.